Abbiamo sentito questo Vangelo di Marco, capitolo 5, che è di una chiarezza impressionante. Io non so come fanno certi preti a dire che il diavolo non esiste. O non hanno mai letto il Vangelo, oppure hanno paura e lo negano. Io sono uno dei 10 esorcisti della diocesi di Milano. E siamo pochissimi perché la diocesi ha più di 5 milioni di abitanti. Ma il vescovo, quando ci ha nominati, ha detto: voi dovete essere miei collaboratori perché la Chiesa si deve occupare anche dalle persone tormentate dal diavolo. Ora, cari amici, non dobbiamo vedere il diavolo dappertutto, ma non dobbiamo neanche negarlo. Questo brano di Vangelo è chiarissimo. Anzitutto, ci sono persone possedute. Sono molte o sono poche? Sono poche, per fortuna, ma ci sono. Sono persone che certe volte sono fuori di sé e qualcuno dice: sono ammalati di testa. Un bel niente. Un ammalato di testa non va davanti a Gesù a dire: io so chi tu sei, non tormentarmi. Questo riconosce Gesù e ha paura. Questo capita anche con me. C'è gente che arriva fino al cancello della mia casa, portato dai parenti, e poi non vuole entrare. Si butta per terra, devono prenderlo con forza e portarlo dentro. Io non faccio nessun esorcismo se la persona e i suoi familiari non lo vogliono, Siamo liberi. Ma poi quando entra lì nel locale dove io li accolgo, io ho sempre una squadra di 4 o 5 uomini o donne che mi aiutano per bloccare questa persona, perché si agita con una forza e in una maniera così esagerata che se ti arriva una pedata o una manata ti lascia il segno. E io comincio la mia preghiera. Cos'è l'esorcismo? È una preghiera della Chiesa che dura circa un'ora di preghiera. Io non sono Gesù che l'ha scacciato in 5 minuti. Io non sono Padre Pio, anche lui ha fatto, si vede in qualche suo film, degli esorcismi in 5 minuti. Io sono un prete di campagna, peccatore, però che ha ricevuto dalla Chiesa questo incarico. E allora lo attacco. Prego, comando che se ne vada. E lui naturalmente reagisce e mi maltratta con parolacce, con insulti. Io vi chiedo, pregate per gli esorcisti, perché se ne sentono dire di tutti i colori, di parolacce. Adesso tutti abbiamo la mascherina, ma io c'avevo lì la scorta di mascherine anche anni fa, perché quando arrivava qualcuno mi sputava in faccia. Io poi concludo per non farla lunghissima, ma Satana esiste, l'inferno c'è, per fortuna c'è il paradiso. E quando noi facciamo dire la messa per i nostri morti, pensiamo che siano in purgatorio. In paradiso è difficile che ci si va subito, ci vanno i santi, i grandi santi. Quando è morto Papa Wojtyła, tutta la gente gridava santo subito, e infatti è stato proclamato santo. Io spero che nessuno sia così malvagio da andare direttamente all'inferno, anche se, stando ai pastorelli di Fatima e stando ad altre apparizioni anche di Suor Faustina, hanno visto che delle anime andavano all'inferno. I pastorelli dicevano: sono fitte come i fiocchi di neve. Signore pietà, Signore pietà, preghiamo per le persone nostre che si avviano verso la morte. Non facciamo mancare mai l'aiuto del dottore, ma neanche l'aiuto del Signore. Si chiama il dottore, il prete non lo si chiama, o lo si chiama quando è già morto. Amici, viviamo una vita vicina al Signore, la confessione ci perdona i peccati, la messa ci perdona i peccati, perché il nostro combattimento non è solo contro la malattia, non è solo contro quella che chiamiamo la sfortuna, è anche contro il male. Cosa diciamo nel Padre nostro? Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E allora, cari amici, dobbiamo riscoprire la nostra fede. Solamente Gesù può combattere Satana. Che strano. Io incontro tanta gente che viene da me dopo che è stata... mi viene da ridere. Mi telefona uno e mi dice: scusi, lei dà le benedizioni? Sì. Ah, perché io sono perseguitato dalla negatività, mi dice. E allora ho chiesto a mia mamma, ho detto: mamma, ma quella donna che toglie il malocchio c'è ancora? Cioè, no, è morta. E allora vengo da lei. Bravo, bravo. Se no andavi da lei. Ricordiamoci, amici, che è un grave peccato andare dai maghi, dagli stregoni, dagli sciamani. Anche se sembra che ti fanno del bene, sono come i pescatori che vanno in riva al mare e buttano il cibo per i pesci. I pesci accorrono e quando sono arrivati li pesca. Così anche noi. Il male ci attira, Satana è diabolico e poi ci pesca. Va bene, allora partecipiamo a questa Santa Messa, offriamo Gesù che rinnova sull'altare il suo sacrificio della croce e la sua risurrezione per i nostri che sono morti e per noi che, grazie a Dio, stiamo ancora bene, perché non si aspetti a pregare per noi quando saremo morti. Preghiamo fin da adesso perché il Signore ci liberi dal male e non ci abbandoni alla tentazione.